America 24. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. Citizen Kane, film celeberrimo, Quarto potere, il film di Orson Welles del 1941, quando l'editoria, la carta stampata era tutto il potere. Appunto, il personaggio che interpreta Orson Welles nella realtà romanzata è ispirato al grande editore Hearst, che dominava la politica coi suoi media, coi suoi giornali, dominava il business, si arricchiva ed era uno dei più importanti magnati del suo tempo. Oggi il suo posto, naturalmente, lo sappiamo, è stato preso dai grandi avventurieri, eroi, imprenditori, visionari di internet, che hanno ingoiato un po' tutto, la carta stampata, quel quarto potere inarrestabile e molto meno potente, anzi è poco potente, non riesce a frenare l'onda lunga di internet, dei prodotti che la stanno travolgendo. Cosa fanno? Non soltanto rubano il mercato pubblicitario, ma rubano anche i giornalisti che sono nati, cresciuti, che si sono affermati nella carta stampata e che poi improvvisamente passano da un vecchio media a un nuovo media. Prendiamo Quartz, ci sono due grandi giornalisti, che uno che è stato per 18 anni al Wall Street Journal, l'altro per 15 anni con Bloomberg. A un certo punto hanno mollato tutto e sono passati a questo sito, un sito intelligente di approfondimento news. Oppure Ben Smith, che insomma è nato col Wall Street Journal, è passato al Daily News, al New York Observer, insomma ha lavorato un po' in tutti i media di carta stampata, poi passa a politico e poi da politico, che nel frattempo diventa un sito internet già affermato, passa alla nuova sensation, a BuzzFeed. Sembra che non ci sia tregua, ogni volta che c'è qualcosa di nuovo c'è un ricambio continuo, un passaggio continuo, un movimento continuo di giornalisti, di autori, sempre alla ricerca della nuova frontiera di internet. Non è un fenomeno nuovo, attenzione, io mi ricordo quando una decina d'anni fa, forse anche qualche anno di più, ero in uno dei viaggi della Casa Bianca ed ero seduto di fianco a un mio vecchio amico, John Dickerson, il quale era, pensate, il corrispondente politico, corrispondente dalla Casa Bianca, di Time Magazine. Time, lo sapete, fino a 10-15 anni fa era ancora Time Magazine, era un media che riusciva a cambiare l'umore della nazione. Adesso lo è molto meno, Newsweek ha chiuso. E che succede? Che in quel momento, quando Time era ancora molto solido, mi dice: sai Mario, ho deciso di cambiare testata. Ah, dico, ma dove vai? Al New York Times? No, dice, vado a Slate. Slate.com era un sito internet di nuovo molto raffinato, molto intelligente, sponsorizzato da Microsoft, ma un po' underground. E io resto perplesso, penso che gli sia andato qualche cosa di storto a Time, che magari ha litigato con Walter Isaacson, che era il direttore di allora, che magari così ha una crisi esistenziale. E invece no, devo dire, lui mi disse: no, la mia è una scelta professionale perché sto puntando sul futuro. Ha fatto bene. Pensate che John Dickerson su Twitter oggi ha 1.300.000 seguaci, è diventato uno dei più autorevoli commentatori della CBS alla televisione e continua a scrivere per Slate, scrive libri ed è uno dei grandi giornalisti nazionali. Non so se sarebbe arrivato dove è arrivato se fosse rimasto a Time in declino. There's a problem in journalism. We call some of the topics. Questa è l'ultima novità in materia sul tema del cambiamento dei giornalisti che cercano nuove frontiere. Che avete ascoltato è Ezra Klein, un giornalista che aveva avuto uno straordinario successo al Washington Post con un blog politico, One Blog, che era diventato il blog politico più seguito negli Stati Uniti, una miniera d'oro per il quotidiano di Washington, 4 milioni di pagine visitate al mese. Insomma, sembrava che avesse trovato la sua strada. No, Ezra Klein dice: lascio il Washington Post, la notizia è di una decina di giorni fa, per andare a Vox, un nuovo sito internet. E dice che cosa? Dice: c'è un problema nel giornalismo di oggi, trattiamo alcune notizie come verdura o spinaci. come qualcosa di non particolarmente attraente ma che va mangiato perché ci fa bene. Ma questo è un atteggiamento sbagliato. Se non riusciamo a rendere interessanti da leggere queste notizie che sono importanti e significative nella vita delle persone, abbiamo fallito come giornalisti. Insomma, Klein critica il metodo, dice che un giornale come il Washington Post è un giornale ancora pensato per la carta stampata, è un giornale condizionato da vecchie tradizioni, un giornale che per quanto riesce ad esprimere delle creatività su internet, alla fine sarà sempre sotto una briglia molto stretta. E dunque si è liberato, secondo lui, il vero passaggio verso questa nuova dimensione che ancora non conosciamo fino in fondo, non conosciamo fino a che punto la dimensione di internet potrà cambiare il modo in cui studiamo, leggiamo, pubblichiamo, costruiamo le notizie. Siamo agli albori. Pensate, è un po' come quando la televisione arrivò e all'inizio i primi speakers televisivi parlavano come se parlassero alla radio, non c'era niente di diverso. Poi la televisione piano piano ha trovato la sua dimensione, poi le immagini, poi le dirette, insomma è diventata poi quello che è diventata. Internet deve ancora esplodere dal punto di vista di news. Ezra Klein scommette di essere parte di questa esplosione con Vox. Perché? Qual è la differenza di Vox? This is a real problem, and it's not a problem we could solve in print. Punto di forza di un sito come Vox Media è Corus, cioè cosa ha fatto Vox? Si è sviluppato un suo sistema editoriale per adattarlo a quelle che sono le esigenze del suo prodotto, dei suoi giornalisti e di quello che vuole esprimere, per cui riesce a integrare video, grafici, immagini, testo simultaneamente. L'articolo non viene scritto per poi essere archiviato, ma l'articolo resta vivo, continua ad evolversi nel momento in cui la storia legata a quell'articolo si evolve, si aggiungono delle schede, non ci sono gli articoli correlati e come vediamo noi oggi sui nostri siti, che devo dire in Italia appaiono un po' tutti così datati. Perché? Proprio perché non c'è questa flessibilità per sfruttare al massimo la multimedialità. Qual è il segreto di Vox? È quello di avere delle cards, è quello di avere delle schede. E queste schede vengono inserite nell'articolo se ci sono delle novità, diventano degli approfondimenti. L'articolo non è sensazionalista, l'articolo è serio, l'articolo è breve ma consente di approfondire attraverso queste schede. Bene, ragazzi, ha avuto 75 milioni di pagine nel momento in cui era nel lancio, è diventata la sensazione assoluta negli Stati Uniti, è un mezzo dal punto di vista tecnologico straordinariamente duttile. Perché? Perché il giornalista può fare tutto, tiene questa sua storia, inserisce i video, inserisce le cartelle grafiche, inserisce le foto. Da noi purtroppo ci sono rigidità che impediscono al giornalista di mettere la foto direttamente sull'articolo, che impediscono al giornalista di poter seguire questo articolo. Insomma, siamo indietro, ma l'America, come dico sempre, resta pur sempre la nuova frontiera, soprattutto nei media. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPratero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di nuove frontiere nei media, dei Rolling Stones, Who Wants Yesterday's Paper. Ma chi vuole il giornale di ieri? Who wants yesterday's paper? È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.